Io lo so. Ah, chi se mi ha fatto la panda, la scorrata, non ve posso vedere. Magari con i CH ed uno andava e ti rompiano le cattole. Sì, prima girava, prima si vedevano sia sulle strada che il furgone. Qualcuno lo conoscevo che ci lavorava, uno di Rossi lo conoscevo. Sarà in pensione adesso. Qualche spavento ce lo facevano prendere. E poi li sentivi me quando era in giro, tan tan tan tan tan tan. Avanti Gianni. Vabbè, epoche passate, dai, passato un po' di tempo, prima si chiamava Escopost, poi non so se ci abbandonavamo. Mi ricordo una volta erano venuti a Predanieda per verificare il trasponder di TDG, perché avevamo un trasponder che mandava il segnale a Monteoro e poi da Monteoro c'era la postazione che ripeteva il segnale, e non mi ricordo per quale motivo erano venuti a fare dei controlli e si erano piazzati con la macchina lì, con l'antenna, tirato su, sai, l'affare telescopico, patapim, patapam, tutte cose, poi alla fine non mi ricordo che era tutto tranquillo, insomma, e niente. Poi vabbè, dell'epoca non mi ricordo tantissimo, anche perché insomma inizia a passare, è passato anche un po' di tempo, giustamente non sono stato una così grande frequentatore della 27, anche se ho fatto il mio esordio in quegli anni lì, però sai, metà anni 80, poi sono sparito e mi è ritornata la voglia da poco, dai. E vabbè, questo è quanto. Adesso con Franco ci siamo rivisti anche l'altro giorno, l'altra mattina. Più o meno siamo sempre uguali, Fra, no? Ah sì, tu sei sempre mimetica, il verde ti domina sempre. Vabbè. Oh, yeah. Ho acceso il computer adesso. Ho detto cazzo, magari sono il solito nottambulo, invece c'è anche altra gente ancora. Avanti anche tu. No, già ci siamo anche noi, già, senza problemi. Non c'è problema. Quando frequentavamo lì, io avevo ancora la moto, avevo già la macchina, ti ricordi già? C'avevi una Panda 45 nera, già me lo ricordo, con un impiantino discreto. C'avevo anche l'antenna, baracchino allora. Non mi ricordo. Ti direi una bugia, non mi ricordo. Perché c'avevo la frusta nera, quella grande, un'antenna enorme, cazzo. C'avevo nella Panda, nel pandino nero, nel 45, sì. Guarda, non vorrei dirti bugie, mi ricordo dell'impiantino discreto che c'era in macchina, però dell'antenna, questo dettaglio mi sfugge. No, ce l'avevo, perché a parte che c'era già il foro, perché quella macchina c'era già la predisposizione per l'antenna, quindi avevo già utilizzato il buco nella capota, poi sparava bene perché era proprio centro capota, era una bomba. Era poi 1,80 m di antenna, di quelle caricate, figurati, era molto pesante. Infatti una volta avevo preso un ramo, una volta si era spezzato proprio la baglia, allora l'avevo modificata. Ho capito. Guarda, forse è come l'antenna che ho io qua, che è una frusta nera col mollone, adesso non mi ricordo se Sigma o Lem. Vecchia scuola comunque, 1,75 m, magari è la stessa roba. Sì, però la molla gliel'ho messa dopo, perché si era aspettato quel petto, avevo cercato di modificarla, allora gli avevo inserito questa molla e poi avevo accorciato un po' lo stilo. Si piegava un po', ma che prima rimaneva bella dritta, tesa, cavolo. Però le cose troppo rigide alla fine poi si spezzano, si deve fare. Però ci va bene. Io mi ricordo quando lavoravo al Ghiero, lì la zona di San Marco, arrivavo tranquillamente a Sassari, vabbè, avevo anche un 150 watt, un lineare attaccato sempre. L'aiutino, No, io quella che c'ho l'ho staccata da un vecchio camper in disuso. Niente, ce l'ho qua, ce l'ho come antenna di fortuna, dai, come rimpiasto. La uso in caso di estrema necessità. Avanti, Antonio. Scappa. Quell'antenna che uso ogni tanto di scorta quando si rovina appena appena la boomerang, così. No, già l'ho usata qualche mese fa quando mi si era rotta la boomerang, ho usato quella come ruota di scorta, dai. Cazzo, il pandino nero, cazzo. Ma poi quanti anni l'hai tenuta quella macchina, fra? Non mi ricordo, 4 anni, non so, 4-5 anni. Poi avevo preso la 1 turbo diesel e lì usavo la magnetica invece, non ho fatto il buco. E mi ricordo una volta rientrando nel rettilineo di Olmedo lì, mi sono dimenticato, lì stavo camminando e cazzo, mi sono staccata l'antenna, mi faccio la macchina. Un po' mi aveva ammaccato lì vicino al finestrino posteriore, dai. Però meno male, niente di che. Non mi ha spaccato il vetro, meno male. Piriguro. Voglio. Cazzarola. No, adesso stavo ripensando a quei tempi via Roma. c'era già, tutti gli impianti ce li facevamo noi, stavo sempre smontando, facendo, sia nella macchina mia che quella di Tore, di Aldo, di tutti. Altri tempi, dai, ci si divertiva così. Avanti, Aldo. Bei tempi erano. I tempi vostri erano. L'epoca di Marco Palolo. Siamo diventati tutti più grandi, fra. Puruedo, Valabanza, Liberi Bianchi. Stesso cazzo, sembra ieri. Allucinante, cazzo. No, veramente. Ci sono persone che anche nel corso degli anni non cambiano a livello proprio di fisionomia, e tu rientri tra questi, dai. No, infatti è bello poi rivedersi e vedere, sì, poi sai, le rughe, i capelli bianchi, la panza, insomma, però sai, bene o male la fisionomia rimane sempre quella. Al contrario di altri che invece cambiano veramente, cazzo, totalmente. Ma io come penso sono rimasto sempre uguale. I capelli forse li ho persi un po'. Poi il resto siamo sempre, sì, belle rughe ce l'abbiamo. Ma anche tu mi sembri sempre uguale, sempre lo stesso. Anzi, forse tu anche più di me, secondo me. No, infatti ti stavo dicendo proprio quello. Alcuni riescono, giustamente per cose che sono al di sopra di noi, a mantenere, tra virgolette, una certa fisionomia, perché ho un sacco di amici che a distanza di anni sono cambiati completamente, proprio, cioè sono passati da un estremo all'altro, cioè no, non è colpa loro, giustamente, attenzione, però dico, sai, nel corso degli anni vedi come cambiamo, dai. No, sempre lo stesso carattere, mi piace scherzare, ma anche tu sei così, vedi, sempre la solita risatina. Poi mi ricordo, i capelli ce l'avevi già così, che ti rasavi già a zero. Quindi non c'è cambiato niente. Già l'è passata l'acqua sotto i punti, dai, non solo per me, anche per te e per gli altri, dai. No, comunque è stato un piacere rivederti, dai. Magari la prossima volta ci vediamo un caffè, dai. Avanti, Antu. Questi giorni già ce lo prendiamo insieme, se volete. Certo, io mi stavo appena alzando l'altro giorno. Ci è beccato proprio quando stavamo rientrando. Sono volentieri, davvero, semmai ci sei trattenuto un altro po' lì. E io ero con i colleghi che stavano rientrando, infatti mi stavano aspettando giù. Ma perché hai visto a me? No, no, ero lì con Gianni quel giorno. Là, se capita, ci vediamo, va. No, io a parte non ti riconosco, quindi non ti conosco, quindi non ti potrei riconoscere. Non mi ricordo di te, se no ti avevo detto, ah sì, lui è, provarci che ti abbia anche visto. Non lo so, mi hanno detto che sei un tipo, non so, mingherlino, magrolino, mi hanno detto, poi, bassottino. Guarda cazzo bassottino. No, sto scherzando. Mi ha detto che ti seguito piazzato, dai. Così già. Va bene, avremo modo mai di incontrarsi. Cappa. Forse Gianni mi conosce di vista. Già ti ho visto un paio di volte, Anteo, dai. Però giustamente non ci conosciamo in maniera diretta, quindi come giusto che sia, prima di fare certe cose bisogna prendere misure. Ma stavo a filmarmi, mi fermavi e me lo dicevi. Ehi, no problema, già capiterà, quindi già siamo anche vicini di casa. Le cose accadono al momento giusto. Gappa, ho già... se capita di bimua che cosa, non è problema. Ehi, guarda, io ero con degli amici lì in Corso Fico al Grillo. Mi sono preso una bella boccata d'aria, a Pacero Freddo. Yes. E niente, e quindi sono rientrato poco fa, dai. Avevo bisogno di una bella boccata d'aria. E niente, dai. E poi ho trovato a voi e sono qua, dai. Cappa, magari un Grillo, non dimmi che sono tipo un po' carino grosso. Ma il titolare stai dicendo? Quello lì. Roberto. Quel tipo un po' grosso, eh. Roberto, il titolare. Dovrebbe essere quello lì, Bar Grillo, sai. Positivo. Non è quello che vende i biglietti del tram, quello prima mi pare. No, cazzo, vabbè, Bar Grillo me ne sono uno, mi dicono tu. Cazzo. Poi non so se vende i biglietti del tram. Non lo so. Dai, lui ci va a piedi intanto. Scappa, che no, che esce dai no che gioca a vinto. Boh, vabbè, questi biglietti no, è una cosa che non, boh, non lo so. Comunque poco fa ero lì, quindi mi sono bevuto le mie birrette con degli amici e niente, dai. Comunque fai di freddo davvero, stamattina in certi punti all'ombra c'era freddo. Qua ci sta sempre bene. E anche il giorno che ho incontrato a te, già, che eravamo lì seduti in quei tavolini di fronte al bar, catta, me la venendo lo freddo. Guarda, stasera, sono uscito di casa, intorno alle 6:30, si è pisolato, il suo maestrale, allucinate. Cazzo, ma freddo. Cioè, ma com'è che mi sono buttato una giacchetta militare? Perché volevo uscire a maniche corte, invece, meno male il buon senso mi ha aiutato, cazzo. E credimi, stavo, insomma, non era a mio agio, dai. No, vabbè, poi questa zona è abbastanza aperta, quando tira il vento già si sente, dai. No, io proprio, sembra il vulcano più freddo del mondo, come diciamo, a Cancarà, dumi. Aspetta, mi sto preparando la sigaretta, avanti Antu. Oggi c'era freddo, oggi c'era freddo, cavolo, è poco pazzimare, mica storia. Sì, no, io stasera sono andato a farmi una bella escursione lì a Montefurro, che ci sono un paio di ville antiche, degli anni, primi del Novecento, credo. Dove girano anche storie, non so se sono storie, forse sono cavolate, dai, raccontate dagli antichi. E c'è anche un gazebo fatto in marmo che è bellissimo, in mezzo alla macchia mediterranea, che è quella vallata che va da Montefurro fino all'Ogulentu, ma veramente bella, piena di fontane scavate nella roccia, dentro ci sono le stalattiti tipo quelle delle grotte di Nettuno, cose mai viste, Ma lei, vabbè. Esci c'è un'acqua trasparente, guarda, cristallina, che poi quest'acqua va a alimentare giù un vascone che sembra una piscina di gente ricca, che piena di, come si chiamano, di merletti tutti fatti in pietra, no? Di rosoni, veramente belle cose abbiamo qua che non sono neanche valutate. Ma per carità, non diamo valore che si cavolo, così il mare che ci abbiamo, molti, due Plastamone, Plastamone è bellissimo per dire, non è brutto no, per dire, ma ci abbiamo un sacco di cose qua che io l'altro giorno sono stato in una villa, ho visto questa cosa scorrendo, sono rimasto incantato, l'acqua proprio, sono rimasto incantato. No, in Sardegna abbiamo un diamante grezzo, è che non riusciamo a farlo valere per quello che è, non ci sappiamo vendere bene. Abbiamo un sacco di monumenti, tombe giganti, come si chiama, Domus de Diana, bellissime, ho visto un paio lì a strada per andare a Putifigari, che già il nome dice tutto, perché si chiama Sincantu, ma dentro è una cosa impressionante, cose fatte 5.000 anni fa. Ma siamo dei pirla, cavolo. Magari è anche buona l'acqua, Milli, dove stai dicendo tu? Guarda, se non l'hanno inquinata gente che abita su, no? Perché su ci sono delle ville, ho visto delle ville che se le guardi anche con lo GPS, come si chiama, con Google, sono ville enormi, con piscina, e io non so se questi hanno la fogna o se hanno la fossa settica, se hanno la fossa settica, piano piano nella roccia questa cosa filtra, quindi bisognerebbe analizzarla, a occhio l'acqua è perfetta, chiara, limpida, guarda, è da vedere, va. È una sorgente naturale, ma sono da valorizzare i posti. Io comunque, no, certe cose no, non ce le trovo, cioè, secondo me bisogna valorizzare certi posti. E allora, ci sono dei percorsi fatti così dalla gente comune, li ha un po' puliti, ci sono un sacco di percorsi che partono da Filigheddu, da su che scendono verso la vallata qua di Lugulintu, tre percorsi ci sono segnalati, ma niente di che, è fatto da gente come noi, però vorrebbero tutti puliti bene come si deve, segnalati come si deve, e quindi io ci sono arrivato così mi all'avventura, così con il navigatore, con il GPS, con qualche coordinata, se no neanche li trovi. Lo so già, c'è quello andando verso Monserrato, quello dove sono andato io a portarci quella bombola, c'è questa fontana naturale che è uno spettacolo da vedere, io sono rimasto incantato quando sono sceso lì che l'ho vista. Siamo pieni, questa tu immaginati una galleria scavata dentro la roccia, in piano, no, non un pozzo che ascendere, proprio in piano, va diciamo a intercettare qualche vena d'acqua, e poi tutta scavata, ci vedono ancora nelle pareti, sulla parte alta del soffitto, ancora i segni della piccozza come hanno scavato tutto quanto, e poi giù in fondo a una decina di metri di profondità si è creata questo monumento, questa salatite, no? Creata dalle gocce dell'acqua che scendono giorno dopo giorno, di qualche migliaia di anni sarà. Sono cose fantastiche quelle. Se vi capita andate a vederla questa villa qua, questa villa con queste fontane, devi un po' cercarle perché non sono indicate, io avevo qualche suggerimento quindi le ho trovate, se no sono un po' difficili da trovare. Bello proprio il posto, ma potevano fare anche adesso qualche parchetto potevano fare pure, dove uno poteva anche si sta abbandonando in Sassari. Queste sono strade che prima usavano i nostri nonni, mica passavano la trasfaltata che va adesso per andare a Sorso, lì a Lovulento tagliavano, salivano su e uscivano a Montefurru, e da lì in un attimo erano a Sassari, capito? Era una scorciatoia che passavano i nostri nonni in mezzo agli alberi altissimi, querce e secolari. Sì, lo so. Avanti Gianni. Qua quella si chiama memoria storica. E quando si perde quella memoria storica, anche questi dettagli qua te li perdi. La gente passa nell'ambulanza. E quando si perde quella memoria storica, ecco perché poi alla fine ci si meraviglia di certe cose, perché poi sai, lo stupore di vedere determinati posti, anche qua, neanche a qualche chilometro, sì. Perché si è persa quel tipo di tradizione orale, no? Di tramandare le conoscenze attraverso la parola, no? Sai, questo me l'ha detto Tizio, me l'ha detto Caio, Ghide Ghidaccio, però sai, alla fine sono sempre cose belle scoprire determinate cose anche dentro Sassari, un casamai pieno di cose allucinanti, cioè figura di due. No, ma ho degli amici che vanno a fare escursioni, quindi ogni tanto mi dicono delle cose. E niente, dai, sono belle cose da vedere. Sì, d'accordo un po'. Ho abbassato un po' di potenza. Sì, la leggenda poi racconta di questo signore che stava proprio rientrando da lì dall'Oguleto, dagli orti che c'erano di sotto in quella vallata, ed entrava verso Sassari. E ci passavano tutti i giorni davanti a questa villa, era una villa di questi, si chiamavano Quesada, una cosa del genere, di Quesada. Questa villa era già abbandonata, era già mezzo diroccata, e invece lui arriva lì, in prossimità di questa villa, e sente della musica e delle luci accese, cioè delle luci dei baglioni, dai. Apre la porta e questa gente l'ha tirato dentro a lui, e è iniziato lui a ballare con questa gente, a girare questi giri ballando, no, in cerchio. La cosa strana è che questi non si stancavano mai, e invece lui non ce la faceva più, dopo ore di danza e di balle lui era mezzo morto, non aveva via più, già stanco dal lavoro, perché queste erano delle anime, dei fantasmi, diciamo, là. E non riusciva ad andare via da lì perché questi si offendevano, no, non riusciva di rimanere, continuava a ballare. Comunque alla fine lui riesce a svincolarsi e scappa. Mentre scappa fa una cinquantina di metri, si gira e non c'era più nulla, di nuovo le luci spente, la solita casa diroccata e la musica è finita, dai. E lui è entrato a Sassari, ha raccontato le storie, qualcuno ci ha creduto, qualcuno l'ha preso per scemo. Questa storia viene narrata, diciamo, dai nostri anziani, dai nostri vecchi, da. Eia, sì, vabbè. Comunque, nelle leggende si nasconde sempre un pizzico di verità, poi quale sia la verità è da stabilire, da vedere, in base al proprio sentire. Comunque, nella leggenda c'è sempre un pizzico di verità. Qual è? Boh. Ma mi riferisco anche ad altre cose molto più conosciute, molto più famose. Sì, se capita tu scrivi su internet e metti casa dei fantasmi, Bari, Monteburro, e ti leggi la storia. C'è chi la racconta in un modo, chi in un altro, ma sono molto similari le cose, no? Diciamo che il sunto è quello che vi ho raccontato io, dai. Ma è che abbia stato marijuana, no? Ecco, detto, visto che l'abbia vinto prima di stare vivi. Guarda, mi viene in mente un racconto che mi hanno fatto, praticamente, sempre di una leggenda, no? Praticamente attaccata a Monteforte, dove c'è il ponte dell'aeronautica, quella si chiama Punta Canisreddu. C'è un versante che dà verso il lago di Baras. Un signore anziano mi ha raccontato una storia, praticamente che questa donna fuggiva da un villaggio perché a quanto pare questo villaggio era stato colpito da una sorta di maledizione, e questa voce gli aveva detto praticamente di portarsi portarsi via questo canestro in testa, che era, si salvava solo esclusivamente se lei praticamente fuggiva da questa cosa senza mai voltarsi, ok? Se lei si voltava praticamente automaticamente veniva pietrificata. Cosa è successo? Questa donna fugge con questo canestro in testa, sentiva insomma dei lamenti, delle anime che soffrivano, cioè veniva sempre tentata dalla voglia di girarsi, insomma, per vedere cosa stava succedendo. Ha resistito sino a un po', poi alla fine è arrivata in cima a questa vetta, praticamente era talmente forte la voglia di girarsi che alla fine si è girata e niente, praticamente questa donna rimane pietrificata e da lì la leggenda volle che quel tipo di cima riprendesse il nome di Canisreddu, cioè del cesto che aveva in testa. Ma tu quella statua l'hai mai vista? No. Perché la conosco anch'io quella storia, un po' diversa, praticamente a me l'hanno raccontato così. Praticamente questo signore, che sarebbe Gesù, è andato in questo paese, lì vicino al lago di Barat. E praticamente ha chiesto, sicuramente ha chiesto qualcosa da mangiare o da bere e gli è stato rifiutato, negato. Mentre lui andava via da quel paese, ha incontrato questa donna con un bambino in braccio, e non so cosa sia in testa, questo come citusso, che è e gli ha detto questo signore, mi raccomando, qualsiasi cosa tu senti, non girarti mai. E praticamente lui, questo signore ha fatto sprofondare la città, no? Infatti la città non c'è più. Lei si è girata, come ha sentito un rumore, ed è rimasta pietrificata. A me me l'hanno raccontata così, però siamo lì, Sì, vabbè, forse mi sono dimenticato alcuni dettagli, vabbè, la memoria è quello che... Sì, comunque, più o meno la storia è molto simile, dai. Adesso non mi ricordo chi esattamente mi aveva raccontato la storia. Comunque, sì, adesso sei riuscito a incastrare dei dettagli che mi sono dimenticato. Vabbè, io l'ho fatta... Forse l'ho fatta anche... l'ho ridotta anche in maniera molto spicciola. Comunque, sì, più o meno è... La versione è quella, fra, dai. Anche io, adesso, ripensandoci bene, mi ricordo degli aspetti simili, dai. Però ripeto, l'ho cercata quella statua e io non l'ho mai trovata. Quella signora mi ricordo che gli aveva dato da bene, sicuramente gli ha dato da bene, quello che ricordo da sempre, quindi l'ha dissettato. Però lì si è girata ugualmente ed è rimasta certificata, ma ripeto, io non l'ho mai vista quella. Non so neanche se esista o se è una leggenda, non lo so. Avanti a tu. Antonio, sei dormito? Sono andato in bagno. No, pensavo che ti avessi annoiato un po'. No, no, mi piacciono queste storie perché mia nonna me le raccontava. Io ho mio suocero che vabbè, è grandetto adesso, però quando ci mette a raccontare è una cosa tremenda. E poi c'è una memoria, si ricorda tutto, si ricorda poesie anche che addirittura non è neanche studiava lui, che stava studiando la sorella tanti anni fa a scuola e lei parlava prima lui di lei e lui ancora se ne ricorda. E le storie che raccontavano poi attorno al fuoco, dai, al braciere. Sì, era così, non veniva la televisione. Sarebbero da scrivere, io qualcosa l'ho registrata, qualche cosa ce l'ho registrata sul telefonino. Sì, anche mio nonno era così. Cioè mia nonna, volevo dire, raccontava queste storie del paese, cosa era successo, che questo va visto, mi sembra, una persona morta da tanti anni, tutte queste storie. Però alla fine era anche bello sentirle queste cose dagli anziani. Sì, poi cercavano sempre di, insomma, di fare un po' spaventare questi bambini poveracci. Era bella quella della la prima zuppa è praticamente quel vento che fischia. E c'è una storia che non vi posso raccontare perché durerà più di mezz'ora, a parte sinceramente non me la ricorderei neanche tutta quanta, però era bella, era molto bella. Iniziava, mi sembra, con questi due tipi che stavano litigando, perché uno aveva un cappello che se te lo mettevi in testa era più veloce del vento, e invece l'altro aveva una tovaglia che come tu la buttavi sul tavolo si riempiva di qualsiasi, di ogni bene, dai, roba di mangiare, roba di bene, di tutto. E questi due stavano litigando perché uno voleva quello dell'altro, e detto, non c'è un problema, si è intromesso questo qua, e domani si mettete uno da una parte e uno dall'altra, il primo che arriva sceglie. E quindi gli consegno la roba, e cosa fa lui? Mentre quelli si allontanano si mette il cappello e fuggi, cioè sia la tovaglia che il cappello. Ma poi continua, perché lui stava cercando, no, poi mi sembra che ha conosciuto una donna bellissima, poi l'ha persa e poi per trovarla ha fatto di tutto, ma è un bel lunga, guarda, è un bel lunga. Alla fine poi lui muore perché la morte lo stava cercando, e lui praticamente era diventato quasi immortale. Era morto come? Si è visto questo carro tutto infangato e questo qua gli ha detto: mi raccomando, tu non fermati mai, non scendere a cavallo. Invece lui è sceso a aiutare questo vecchio che era infangato col carro e con i bui. Questo carro era carico di scarpe vecchie e alla fine era la morte, e quelle scarpe erano tutte le scarpe che aveva consumato la morte per giocare a lui, perché lui era diventato immortale praticamente, e gli ha dato un colpo di furlana a capo e l'ha ammazzato. Ma ha fatto un paio di voti di Daura, non so, né c'è vero né c'è Paura, così finiva così la storia. Mamma mia, già ne raccontavano di cose, raccontavano tante, però alla fine ci stavi, perché allora era quello, era ascoltare anche queste cose. I giovani da adesso queste cose non gli hanno manco ascoltato, i miei nonni, la mia nonna diceva tutte queste storie, non sa neanche cos'è. No, bellissimo, poi ci manca mai tutta la storia, che è la parte centrale, che è lunghissima, sarebbe, mi avete detto un'infarinata, vi ho dato, quindi dall'inizio e dalla fine, ma poi la parte bella è anche quella centrale. E vabbè, dai, avanti Gianni. Hollywood non c'era all'epoca, grazie per carità, e quindi abbiamo smesso di fantasticare, adesso c'è il cinema che ci aiuta a fantasticare. Già sono cose interessanti, anche perché poi, sai, attraverso i racconti ognuno poi attraverso la propria immaginazione ci aggiunge del proprio, no? E quindi ognuno si fa il suo viaggio, no? E infatti i racconti sono belli per quello, no? C'è chi racconta e poi ognuno di noi poi ci mette come si dice, ci aggiunge le pennellate di colore diverso, no? Ma sono veramente interessanti. Adesso mi sfugge, guarda, comunque ho avuto la fortuna di conoscere questa persona qualche anno fa, di cui adesso mi sfugge il nome, stiamo parlando di una persona anziana, tra l'altro è anche una abbastanza brillante, anche ha scritto anche diverse cose, ha pubblicato roba, però cazzo adesso mi sfugge il nome, mannaggia, vabbè, già mi verrà in mente. Riguardo alla storia di Punta Cana, credo, poi mi aveva raccontato anche altre cose, insomma, e lì vive, cioè, lui ha lì una casa nella Nurra, lì zona lì nell'agro di Palmadula, cazzo però mi sfugge il nome. Vabbè, già, candidamente già te lo dico. Non credo di conoscerlo, boh, non lo so, non mi ricorda niente, dai. No, ci sono un sacco di storie belle. Anch'io, che se non te le scrivi alla fine poi te le perdiamo, ce le dimentichiamo, porca miseria. Vabbè, lì a Lugantaro, al parco, ho avuto la possibilità di vedere la grotta dove aveva soggiornato per un po' di tempo il bandito Giovanni Turu, non so se ne hai mai sentito parlare. E dove rimane? Lì a Lugantaro, il parco che c'è attaccato a Monteforte, vabbè, una tenuta, una proprietà. Ne parla anche Enrico Costa di questa cosa qua, se non sbaglio. E infatti c'è questa grotta, c'è questo buco insomma nella roccia, e si dice, insomma, ne parla anche il Costa, che il famoso bandito Giovanni Tursi fosse rifugiato lì per un po' di tempo. Insomma, questo Monteforte era nominato prima, era ricercato, come, vabbè, è una bella zona lì, ricca di vegetazione, quindi sicuramente lasciava un sacco di nascondigli a questi banditi, là. Eh beh sì, parliamo dell'800, dai. Poi, se si pone in Mufogo e altri Bucari, che praticamente gran parte della vegetazione è sparita. Infatti già da quei racconti si parlava di folta boscaglia, vegetazione di un certo tipo. Guarda, io mi ricordo racconti di questi anziani, lo stesso, che camminavano, non so, da quale paese a quale paese, senza vedere il sole, cioè era tutto un bosco. Anche mio nonno, quando scendeva da bene tutti, mi sembra, verso la Cirlipatata, boh, camminavano in questi sentieri e trovavo di tutto, i banditi, e diceva a mia nonna, mi raccomando, non salutare nessuno, se ti salutano tu rispondi, se non ti saluta tieni la testa bassa. E trovavano di tutto, animali appesi, macellati, così, tutta roba rubata, no, roba di abigeato, armi, e di tutto c'era. Però devi tenere i briglioni, capito? E andare avanti. Vabbè. Quelle regole non scritte, dai. Cazzo. Vedi, quella sarebbe una bella memoria storica da tenere in archivio, cioè non solo in archivio, da divulgare, dai. Lasciare i Bucari di internet e di cose che non valgono assolutamente nulla. Una volta rientrando dalla guerra, c'era coprifuoco nel paese lì a Nuvedu, non potevi accendere niente, né luce né nulla, per evitare i bombardamenti. Invece mia nonna accende la luce, infatti ci avevamo messo anche la multa. Lui è rientrato tutto sporco, era, mamma mia, rientrando dalla guerra. Che anni erano, poi degli anni della prima guerra mondiale, dai. Mi ricordo, il comune gli ha fatto la multa perché lì ha acceso la luce. Oh, yeah. Figurati. Adesso mi hai fatto venire in mente una persona che ho conosciuto un po' di anni fa, che vabbè è scomparso da qualche anno, un vecchio partigiano di Oschiri. Aspetta, come si chiamava, il nome di battaglia, comandante Succu. Mi ricordo l'avevo conosciuto in una conferenza che aveva fatto all'università, e lui stava praticamente in una casa di riposo lì a Oschiri, e con dei miei amici mi ricordo che siamo andati, siamo preso l'impegno di andare lì a trovarlo. Fatto sta che si è instaurato un bel rapporto di amicizia, andavamo spesso a trovarlo, lui ci faceva trovare Panadas, Mirto, cazzo, sospiri di tutto. ma senza forzarlo, cioè, iniziava a raccontarci aneddoti di vita vissuta, e questa cosa è diventata, dico, quasi abituale, no? Perché poi, sai, ogni tanto di tempo andavamo a trovarlo e ogni volta ci raccontava delle cose diverse. E tra l'altro ci aveva lasciato anche delle testimonianze, insomma, delle cose che aveva scritto. E poi mi ricordo che ci avevo invitato una volta in pizzeria. Noi avevamo fatto lo sbaglio di alzarci dal tavolo e andare a pagare, cazzo, cioè, lui si è offeso tantissimo, ha dato uno sguardo alla tipa alla cassa, cioè solo con lo sguardo, gli è passato solo lo sguardo, niente, era l'invito del suo e giustamente doveva pagare lui la cena. Ma adesso non stiamo qui a parlare perché ci ha raccontato tantissimi aneddoti di quel periodo molto molto molto particolare, veramente cazzo, ho dei bellissimi ricordi di quell'uomo. E poi nel paese è così, quando uno va a pagare la prima cosa che fanno quelli che sono alla cassa, guardano il tipo del paese per vedere se gli dà l'ok o no, se no basta lo sguardo, lo fulmina il cassiere. Ehi, ehi, sì, poi praticamente era praticamente in questa casa di riposo era il boss, praticamente era uno dei più coccolati lì, e, tra virgolette, era proprio lui che ci diceva: guarda, venite anche fuori orario, intanto non ci sono problemi, le infermiere insomma già sono tranquille. È capitata qualche volta che siamo arrivati anche fuori orario e con la complicità delle assistenti lì ci siamo ritrovati lì nella sala dove pranzano, no? A mangiare papassini, dolci vari con limoncino e mirto vario, e lui che continuava a raccontare aneddoti, ma a notte inoltrata, cioè figurati tu di cosa stiamo parlando. No, beh, si vedeva che aveva una personalità, nonostante l'anzianità, era ancora bello pimpante. Bello lucido, questi sono dei libri a cielo aperto, sono questi anziani, no, anche a me piace poi ascoltare, poi con qualche panata, come dici tu, buona rete, voglio dire, che mamma mia, avanti a tu. Ciao voi, sì, ma non è che le mangio tante panate, cioè, perché i vatini mi pesantiscono. C'è una persona di Oscar che era portata, ma cazzo, mi ha già mangiato 4-5 ero bisciante di tonga, muoio, mamma mia. Beh, io vi saluto che domani sono a un buco. Buonanotte a tutti, buonanotte. Beh, io spengo qua e vi saluto a tutti, ciao ciao. Sì, anche io qui, magari. Anche io domani mattina mi alzo alle 6, sono già alle 11, meno 20, caspita. Domani devo fare anche il vaccino, mamma mia. Spero che mi vada bene, dai. Dai, buonanotte comunque, Antu, grazie per la compagnia, alle prossime, avanti Gianni. Ehi, dai, saluto Antu, grazie della chiacchierata, dai, già ci sentiamo quanto prima, e anch'io mi, adesso, visto che stai salutando anche tu, cazzo, niente, dai, ci salutiamo qua, fa carità, non ti invidio, fra, mamma mia. Vai, non ti dico niente, dai, poi ognuno si muove secondo coscienza. E niente, dai, ci sentiamo alla prossima, grazie per il piccolo QSO, e niente, dai, a presto sia in radio e poi magari per un caffè quanto prima. Ehi, dai, grazie anche a te. Queste quattro chiacchiere in scioltezza, così, serene, tranquille, vedi, senza casino né nulla, e ci abbiamo passato forse un'oretta, forse anche di più. Un abbraccio, alle prossime, ciao ciao ciao ciao, buonanotte, ciao ciao a tutti, buonanotte, alla prossima, ci siamo ancora in ascolto, buonanotte, ciao ciao.